City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti. Questa sera con Smart City andiamo al centro Enea della Casaccia, non lontano da Roma, dove a fine settembre è stato presentato il primo disco solare al mondo in grado di produrre energia elettrica grazie all'integrazione di una microturbina ad aria. Siamo nel campo cosiddetto del solare termodinamico, che include tutte le tecnologie. La più famosa probabilmente è Archimede, che prevedono di concentrare la luce del sole per produrre calore con cui alimentare alla fine, insomma, un qualche sistema di conversione termoelettrica. Ed è un settore nel quale l'Enea ha una lunga tradizione di ricerca, dove questo è un po' l'ultimo ritrovato. Ne parliamo con Michela Lanchi, ricercatrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche dell'Enea, presso cui è responsabile del progetto di cui parliamo, il progetto OMSOP, Optimized Microturbine Solar Power System. Buonasera Lanchi. Buonasera. Allora, dovete un po' migliorare con gli acronimi, ma a parte questo, allora parliamo di un progetto da 5,8 milioni di euro del settimo programma quadro dell'Unione Europea, che ha visto, oltre alla partecipazione dell'Enea, anche quella di diversi altri enti di ricerca e imprese europee. Ma allora, Lanchi, cominciamo con la descrizione di questo oggetto. Uno viene lì da voi alla Casaccia e che cosa vede? Vede un grosso concentratore solare, una parabola ricoperta di specchi che insegue il sole come un girasole automatizzato. Sì. dall'alba al tramonto, e ha una superficie all'incirca di 90 metri quadri, un diametro di circa 12 metri. Ok, questo grosso parabolone, quindi insegue il sole e che fa? Insegue il sole e quindi raccoglie la radiazione solare e la riflette e la concentra in un punto focale, in una superficie, raggiungendo fattori di concentrazione molto elevati. Parliamo di circa 2000 volte l'energia solare. E questa superficie chiaramente si riscalda molto e viene lambita da un flusso di aria. Sì. Che assorbe l'energia e la converte in calore sensibile, quindi l'aria entra in quello che viene definito ricevitore, quindi un elemento captante e assorbente la radiazione solare concentrata, e entra intorno a 500 gradi e si riscalda fino a 800-900 gradi. Questo flusso di aria calda viene poi inviata in una turbina dove espande, si produce lavoro meccanico e attraverso un generatore energia elettrica. Insomma, quindi usate la luce del sole concentrata per riscaldare dell'aria che fate passare poi attraverso una turbina, questa fa girare la turbina e produce energia. Quanta energia produce? Allora, il nostro prototipo, il concentratore solare che abbiamo qui in Casaccia, può essere accoppiato ad una macchina che produca intorno ai 15 kW, per capirci è l'equivalente del consumo di 5 appartamenti. Beh, diciamo 5 appartamenti che stanno consumando al limite della portata del contatore, però insomma, anche un po' di più di 5 probabilmente. Assolutamente, poi dipende anche dagli standard abitativi, ma insomma, per avere un'idea. Ecco, senta, il cuore del sistema è la parte più innovativa, no? Questa turbina ad aria che voi utilizzate, perché normalmente, dicevamo, tutti questi impianti di solare termodinamico raccolgono, hanno bisogno di un fluido che raccolga il calore concentrato della luce solare. Voi utilizzate l'aria. Noi abbiamo introdotto questo elemento innovativo nella tecnologia, la microturbina d'aria di estrazione automobilistica, allo scopo di migliorare il funzionamento di un sistema, diciamo, analogo esistente, che prevede però l'utilizzo di un motore Stirling in accoppiamento al parabolone solare. E questo motore Stirling è stato testato anche su prototipi commerciali, è stato anche commercializzato, e soffre però di una bassa affidabilità. E l'idea è invece di sostituire questo elemento, che è un po' il collo di bottiglia della tecnologia, con una macchina, la microturbina ad aria di estrazione automobilistica, che però appunto invece presenta una grossa affidabilità, una vita utile importante. Consideriamo che nel mondo milioni di turbine girano, certo, vengono utilizzate negli autoveicoli e tipicamente sono molto affidabili, per, certo, cui l'idea è di fare un trasferimento tecnologico, utilizzare un componente già ottimizzato in un ambito diciamo tecnico-scientifico e utilizzarlo poi ai fini della produzione di elettricità alimentata da energia solare. Chiaramente la turbina d'aria è stata revisionata, il progetto è stato completamente revisionato, chiaramente perché abbiamo un'alimentazione energetica fluttuante, la radiazione solare chiaramente non è costante, quindi abbiamo dovuto lavorare molto sul controllo del sistema, però siamo riusciti a dimostrare la fattibilità tecnica dell'accoppiamento della microturbina d'aria con una tecnologia solare a concentrazione, in questo caso appunto il liscio solare. Senta, che tipo di applicazioni vedete per questo sistema? Diciamo applicazioni per utenze che non solo necessitano di energia elettrica ma anche di calore oppure condizionamento o anche per la distrazione, pensiamo alle utenze anche in zone desertiche comunque scollegate dalla rete e quindi piccoli centri commerciali, piccole aziende. Certo, piscine insomma, no? Ospedali, insomma quei tipici, esatto, quelle tipiche utenze che hanno molto bisogno anche di acqua calda o di calore. A questo punto il progetto come andrà avanti? Che cosa farete nei prossimi mesi? E quali pensate possano essere ulteriori sviluppi per questa tecnologia? Noi nei prossimi mesi lavoreremo sul miglioramento del progetto e poi ci focalizzeremo sull'alimentazione mista di questo sistema, cioè ibridizzeremo la nostra macchina in modo che possa funzionare non solo alimentata dall'energia solare ma anche da combustibili o biocombustibili. Perfetto. Per poter produrre energia on demand vincolati dalla presenza o meno del sole. Ecco, perché voi questa aria calda la mandate dentro questa turbina ma potreste mandarci altra aria calda per esempio che viene, esatto, prodotta in un altro modo, lei dice. Esattamente, certo, perché le microturbine ad aria sono nate per essere alimentate da combustibili fossili, da, certo, nelle macchine questo è l'utilizzo e quindi il nostro sistema si adatta molto facilmente anche ad un'alimentazione mista e poi ci focalizzeremo anche sullo stoccaggio termico perché questa tecnologia differentemente dal fotovoltaico converte l'energia solare in energia termica, certo, successivamente energia termica in elettricità e come sappiamo le tecnologie di immagazzinamento dell'energia termica sono molto più avanzate rispetto alle tecnologie, sì, di immagazzinamento dell'elettricità. La produzione di calore può essere veramente una risposta a tantissime necessità anche industriali. Basti pensare che con i livelli termici che noi otteniamo dal solare a concentrazione, anche dal nostro disco. Ecco, si arriva a temperature, non l'abbiamo detto, sì, di 800-900 gradi all'incirca e questo ci permette di alimentare molti processi endotermici industriali quali il reforming degli idrocarburi per produrre metano, la gasificazione di biomasse, certo, o di qualsiasi composto organico, anche rifiuti solidi urbani, per la produzione di syngas e biocombustibili. Sì, insomma, quindi, poi abbiamo già citato la distillazione, un domani, esatto, potrebbe addirittura arrivare l'idrogeno come spesso ricordiamo. Va bene, grazie Michela Lanchi. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani, buona serata, restate con noi.